Diari di quarantena, terza puntata, maggio 2020, emergenza sanitaria Covid-19, arte, poesia, musica, solidarietà ai tempi del coronavirus. Diari di quarantena, terza puntata, maggio 2020, emergenza sanitaria Covid-19, arte, poesia, musica, solidarietà ai tempi del coronavirus. Maggio 2020, emergenza sanitaria Covid-19, arte, poesia, musica, solidarietà ai tempi del coronavirus. Benvenuti e benvenute qui su Radio Forte per la rubrica Diari di quarantena, lo spazio dedicato a tutti coloro che vogliono esprimersi, rompendo questi muri di distanze e di silenzio, entrando in contatto gli uni con gli altri. Vogliamo ascoltare i vostri pensieri, i vostri racconti, le vostre poesie o semplicemente poter comunicare insieme per trascorrere al meglio questi giorni chiusi in casa. Ciao a tutte le compagne e i compagni che ci stanno ascoltando. Siete qui con Jules su Radio Forte per la rubrica Diari di quarantena, terza puntata. Oggi, 23 maggio 2020, dedicheremo il nostro spazio, oltre che all'immancabile poesia adornata sempre da piacevoli intermezzi musicali, anche all'arte visiva. In particolare, ospiteremo il contributo di un'artista, Federica Metz, che ci racconterà delle sue opere create durante questo periodo di isolamento domiciliare. Dai suoi quadri emerge una notevole influenza messicana e una metaforica riconciliazione familiare con la morte, incarnata in un personaggio ricorrente nelle sue opere, in particolare nella serie di dipinti denominata Quarantena, in cui questo assume le sembianze di uno scheletro, ma con comportamenti e atteggiamenti del tutto umani, come ad indicare che la morte è sempre presente. È una conseguenza necessaria e imprescindibile dell'essere vivi, e la paura di essa porta alla privazione delle nostre libertà, a chiudersi noi stessi come in questo periodo. Pertanto non bisogna averne paura, ma anzi affrontare e combattere le paure difendendo sempre i nostri diritti contro chi vuole ingabbiarci e reprimerci. Thank you. Ciao a tutti, sono qui oggi nei diari di quarantena per raccontarvi un po' di me e di come questa prigionia forzata ha influenzato la mia vita. Paradossalmente possiamo anche dire che in un certo senso mi ha anche fatto bene. Mi chiamo Federica, in arte Rica, e sono colei che dipinge gli scheletrini ai quali piace tanto bere vino. I miei quadri sono una fusione tra Messico e Italia, che è nata così per gioco nel 2009. Quando ho deciso di andare a vivere proprio lì in Messico. Ho cominciato a fare piccole mostre, le quali hanno sempre avuto un esito positivo e questo mi ha incoraggiato ad andare avanti. Ancora mi ricordo il primo quadruccio venduto a pochi pesos. Era una sirena calavera che ha comprato un grande artista argentino di cui ho molta stima e che oggi ritengo un amico. Piano piano poi ho iniziato a venderne anche altri che sono sparsi un po' qua e là nel mondo. Ma ora torniamo al presente. Prima della psicosi coronavirus, avevo iniziato a partecipare al progetto dell'Enoteca del Forte Prenestino verso Enotica, facendo delle piccole esposizioni associate alle degustazioni di vino. E poi tutto è andato a puttane, tutto e tutti fottuti da un ipotetico virus. Chiusa dentro una casa che nemmeno mi apparteneva, ho deciso di iniziare ad esprimere il mio disappunto, la mia rabbia, il mio dolore, in una serie di disegni su carta dedicati solo alla quarantena. Non potevo credere che tutto ciò stesse veramente accadendo. In principio ho avuto paura nel vedere proprio con quanta facilità l'intera popolazione mondiale venisse manipolata tramite questo strumento diabolico che definiscono televisione. La paura poi si è trasformata in rabbia. Mi stavano vietando di vivere la mia vita, di ballare, cantare, andare in giro, conoscere gente e da buona italiana bere buon vino in buona compagnia. Ma soprattutto stavano cercando di togliermi il sorriso e se nei primi giorni purtroppo ci sono riusciti, dopo non gliel'ho più permesso. Ed è proprio a questo punto che è iniziato a risvegliarsi in me un senso di ribellione. Sarei voluta scendere in strada e spaccare tutto. Ma ahimè, ho dovuto realizzare che la stragrande maggioranza delle persone non pensava più con la propria testa. La paura gli aveva annebbiato la vista. Ma forse sarebbe più corretto dire che gli aveva annebbiato il cervello. E quindi, per esprimere tutte queste mie emozioni e pensieri, sono venuti fuori 11 disegni, che spero potrete vedere presto in altre piccole esposizioni, quando finalmente decideranno che è il momento opportuno per poter tornare a risocializzare. Intanto cercherò di darvi un'idea approssimativa di quello che ne è venuto fuori, descrivendoli a parole e sperando di riuscirci. Il primo è quello per me più significativo. Esprime un po' il concetto generale della schiavitù per mezzo dei mass media e l'inutilità di avere paura di morire. Sono fermamente convinta che essere liberi è sinonimo di vita e la morte stessa ne fa parte, quindi non capisco perché averne tanta paura. Ho disegnato, seduti ad un tavolino, un alieno, il famosissimo coronavirus ed io, una scheletrina con tanto di palla al piede, che in realtà è una televisione sulla quale appare la scritta "Stai a casa". Tutti e tre insieme stanno giocando a carte e stanno bevendo vino, brindando alla vita. Con ciò volevo far riflettere le persone sul fatto che a volte il nostro peggior nemico non è quello che ci vogliono far credere e che veramente la paura non porta da nessuna parte. Questo l'ho imparato già da tempo a mie spese, ma oggi ne faccio un gran tesoro. Il secondo disegno mette in risalto la pesantezza dell'essere stati separati dalle persone e dai luoghi a noi più cari. Ho disegnato me, sempre raffigurata come uno scheletro, ma con le ali di farfalla, rinchiusa in un barattolo di vetro. Fuori dal barattolo ci sono due gatti, sono i miei due amori, Diego e Giuliano, che mi guardano e vorrebbero stare con me, ma non possono. Questo purtroppo perché per problematiche personali sono stata forzata a non poter andare a casa mia e a non poter stare con loro. Lo so, potrei sembrarvi matta, ma amo davvero quelle due creature, sono gli esseri che mi hanno dato più amore in assoluto. Ed ero così arrabbiata per tutto questo che il terzo disegno rappresenta me, sempre uno scheletro ovviamente, seduta ad un tavolo leggendo un libro dal titolo Come fare una Molotov. Nella stanza ci sono tante bottiglie di vino vuote, sono per terra, sui mobili, nei cassetti, sulle mensole, un po' dappertutto. Sono tutte le bottiglie bevute in quarantena per cercare di passare il tempo, per rendere meno pesante la situazione e per evitare di pensare il meno possibile. La mia intenzione con questo disegno era ed è di risvegliare le coscienze delle persone e lanciare il messaggio che bisogna sempre lottare per quello in cui si crede, lottare per una vita degna di essere chiamata tale, lottare per la libertà di poter decidere come gestire le nostre vite, prendendo decisioni autonome e non dettate da un governo assassino, e per la libertà di parola e di pensiero soprattutto. Perché nessuno, secondo me, ha il diritto di fare tutto ciò che ha fatto anche con un virus suppostamente mortale. Non mi stancherò mai di ripeterlo, dobbiamo riappropriarci dei nostri diritti. Fight for your right, sempre, non dimenticatelo. Saluto tutti e soprattutto un grande abbraccio a tutti quelli che hanno perso tutto, ma nessuno ne parla. Eccoci nuovamente qui su Radio Forte per la rubrica Diari di quarantena. Proseguiamo con il secondo contributo che ci giunge dal GAM, il gruppo appoggio mutuo di Centocelle, nato dalla LAC, la Libera Assemblea di Centocelle. Quest'ultima si è formata in seguito ai fatti degli incendi dolosi alla Pecora Elettrica e al Baracca Bistrò, che lo scorso inverno hanno sconvolto il quartiere. Il gruppo appoggio mutuo nasce per far fronte all'emergenza coronavirus, proprio in questo periodo in cui c'è bisogno di restare uniti, ed è composto da volontari e volontarie uniti da un comune sentire. Nessuno deve rimanere solo, tanto ieri quanto oggi. Il GAM si occupa di distribuire all'interno del quartiere la spesa solidale, inizialmente spesa a domicilio a persone a rischio. In seguito sono passati alla raccolta e alla distribuzione gratuita di beni alimentari e di prima necessità. Oggi avremo il piacere di ascoltare la voce di Samia, antropologa volontaria e responsabile del crowdfunding GAM, che ci racconterà di un progetto che ha preso vita all'interno del gruppo, riguardante artisti e artiste, resistenti e solidali, che hanno deciso di mettere a disposizione le loro opere per un'asta che andrà a finanziare il crowdfunding per sostenere le attività avviate. Ascoltando il suo contributo capiremo meglio com'è nato questo progetto, quali sono gli artisti e le artiste che vi hanno aderito, chi può ancora parteciparvi e quali sono i termini dell'evento. Perciò restate connessi e connesse con noi. State ascoltando Radio Forte, Diari di Quarantena, terza puntata, con Jules. Ricordo che se volete scriverci e mandare i contributi potete farlo attraverso il canale Telegram di Radio Forte o attraverso il sito del Forte Prenestino. Specificatamente per la rubrica Diari di Quarantena potete connettervi alla pagina Facebook di Psycho Jules. Buon ascolto a tutti e tutte! Un saluto a tutte e tutti, sono Samia, una delle responsabili della comunicazione del gruppo di appoggio mutuo della Libera Assemblea di Centocelle. E sì, per sostenere le attività sul territorio e le spese per la protezione dei volontari abbiamo dovuto attivare un crowdfunding. Purtroppo, dopo l'iniziale spinta di solidarietà che ha portato moltissima gente a donare, è subentrato un calo delle donazioni, era prevedibile. I media si stavano affrettando a dipingere una nuova fase della pandemia in cui tutto sembra essersi risolto, invece non è così. Le nostre attività hanno bisogno di tutto il sostegno possibile. Un gruppo di artisti solidali si sono messi quindi a disposizione con la propria arte, il proprio talento, e così è nata l'idea dell'asta Artisti per il GAM. L'asta è aperta a tutti, abbiamo ricevuto opere da artisti affermati più famosi come il sempre disponibile Zero Calcare, che tra l'altro ha anche aiutato parecchio a far conoscere la nostra iniziativa, oppure Croma, vari street artist conosciuti nel panorama romano, ma anche opere di ragazze che partecipavano attivamente al gruppo Appoggio Mutuo come volontarie e si sono messe a disposizione perché magari per hobby dipingono nel tempo libero. È stata anche quindi l'occasione per scoprire nuovi talenti, speriamo anzi di poter essere stati d'aiuto, avendo in qualche modo dato la possibilità ad artisti poco conosciuti di far conoscere la propria arte. Non abbiamo dato alcun limite, tutto poteva essere arte, quindi abbiamo ricevuto fotografie, stampe, quadri, e a breve per esempio pubblicheremo anche dei giubbotti ricamati, tutto può essere arte. È entusiasmante vedere la risposta che c'è stata da parte del pubblico. In molti hanno fatto offerte anche sostanziose per aggiudicarsi le opere a suon di commenti su Facebook, perché funziona così: per fare un'offerta bisogna commentare la singola foto pubblicata su Facebook. E per il nostro crowdfunding è stato effettivamente un bel sospiro di sollievo. L'asta andrà avanti finché sarà necessario e continueremo a pubblicare nuove opere. Noi abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile e se volete partecipare c'è ancora tempo. Non abbiamo fissato una vera e propria scadenza e crediamo che questo evento possa e debba andare avanti ancora a lungo, finché sarà necessario sostenere il nostro intervento nel quartiere e, viste le premesse e l'attuale situazione economica e sociale, purtroppo prevediamo di dover continuare ancora a lungo. Tutti gli interessati quindi possono ancora contattarci, sia per scoprire come aggiudicarsi le opere, sia per offrire le proprie opere e la propria arte. Ve ne saremo grati e contribuirete comunque a darci una mano e serve davvero l'aiuto di tutti. Per tutte le informazioni basta andare sulla pagina

Avete ascoltato Diari di Quarantena, la rubrica interna a Radio Forte, la radio libera, autoprodotta e autogestita. Grazie a tutte le compagne e compagni per l'attenzione. Ci vediamo alla prossima puntata qui con Jules.